Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro settimanale appuntamento con la stampa periodica italiana e non solo italiana. Questa settimana c'è anche una nuova testata che ha debuttato in edicola, si tratta di Wired, è una versione italiana di una rivista che già si pubblica in America, lo pubblica la Condé Nast. Wired è in edicola proprio da pochissimi giorni, ne parleremo più avanti nella puntata, ci sono molte cose anche interessanti e curiose, insomma notevoli in questa nuova proposta di Condé Nast. Ma una cosa che si nota un po' trasversalmente su molti dei settimanali, dei periodici in questo periodo in edicola è che c'è una curiosa ricorrenza del cibo. Si parla di cibo in tante maniere, probabilmente c'è più attenzione anche per quello che mangiamo, forse è un momento magari di attenzione avvicinandosi le stagioni più belle per la linea e quindi come ci nutriamo. Allora cominciamo da altro consumo, perché altro consumo riprende una ricerca della Coldiretti che ci informa innanzitutto che noi italiani mangiamo sempre più spesso fuori e soprattutto cuciniamo sempre in minor tempo. Spiegano ad altro consumo le abitudini di vita ci portano sempre di più a mangiare fuori casa o a ricorrere a piatti già pronti. Questo comportamento potrebbe non essere estraneo all'aumento dei disturbi che sono legati alla cattiva alimentazione, non ultimi i problemi legati appunto al sovrappeso e all'obesità, fenomeni che toccano in misura rilevante anche i bambini. Vediamo qualche numero. Secondo Coldiretti ci sono 3,7 milioni di italiani che pranzano fuori casa almeno 5 volte alla settimana, ragioni di studio, ragioni di lavoro, e tra questi ragazzi tra 14 e 17 anni che ricorrono soprattutto ai cibi dei fast food o ai distributori automatici o, nella migliore delle ipotesi, ai piatti delle mense. Bisogna poi aggiungere che, se guardiamo solo ai bambini, oltre il 20% di loro almeno una volta alla settimana mangia in pizzeria o al ristorante con papà e mamma. Inoltre, segnala ancora altro consumo, rispetto al 2006 si è ridotto quasi del 5% il tempo che viene dedicato alla preparazione domestica dei cibi a pranzo, quasi del 3% quello per la cena. In aumento naturalmente la diffusione di preparati e piatti pronti. Nel primo semestre del 2008, non sappiamo come siano andati nel secondo e più temibile semestre 2008, la diffusione di preparati e piatti pronti ha avuto un aumento delle vendite di circa il 10%. C'è il rischio, commentano da altro consumo, che la dieta si squilibri ancora di più diventando troppo ricca di grassi, carboidrati semplici e di sale. Ma questo ci dà lo spunto per legarci a un'altra cosa che si trova sul Corriere della Sera Magazine, l'abbiamo visto giovedì in allegato al Corriere della Sera, che è dedicata invece alle scadenze che compaiono sui prodotti alimentari e che potrebbero però indicare soltanto un consumarsi preferibilmente entro e non entro il. C'è una grossa differenza, tanto che, come riferisce Federica Cavadini, qualche settimana fa sulla prima pagina del Financial Times si raccontava che c'è un'azienda inglese di nome Approved Food, cibo approvato, che fa affari d'oro vendendo cibo scaduto. Perplessi e incuriositi lettori italiani, disposti a scherzare su molto ma non su quello che si mette in tavola. Cosa fa questa azienda? In pratica ritira cibi che hanno superato il consumare preferibilmente entro e li rivende quindi in un momento in cui il loro valore commerciale è diminuito parecchio, ma i cibi sono ancora consumabili. Perché, come si spiega appunto in questo articolo del Corriere della Sera Magazine, alcuni cibi freschi hanno durate fisse per legge, il latte è ha una durata di 6 giorni se si tratta di latte fresco, così le uova, così la pasta fresca, ma per tutti gli altri ci sono le aziende che testano il prodotto, valutano la materia prima utilizzata, le tecniche di conservazione e il confezionamento. Poi altre variabili entrano in gioco come la catena distributiva, anche le esigenze che ci sono nella grande distribuzione. E soltanto alcune aziende si sono organizzate per indicare la data di produzione, nel caso delle uova in cui si indica la data di deposizione. Ma la cosa interessante è la differenza, ricordata appunto in un box in questo articolo di Federica Cavadini, tra consumare entro il e consumare preferibilmente entro, perché entro il è una scadenza da rispettare, oltre la data che viene indicata i prodotti non devono essere posti in vendita, non vanno acquistati, meglio eliminarli perché potrebbero essere dannosi per la salute. Se invece l'etichetta dice consumare preferibilmente entro, indica il termine minimo di conservazione, in sigla TMC, viene stabilito dal produttore. Il prodotto può essere venduto e consumato anche oltre la data indicata. Non sono garantite le stesse caratteristiche organolettiche. Insomma, il sapore può mutare, non è però pericoloso o dannoso per la salute. Tra l'altro, il fatto che ci sia un legame tra salute e quello che mangiamo viene ripreso anche, ed è un po' l'articolo che va a chiudere questa panoramica sui cibi, dall'Economist, che segnala come e quanto determinante sia stata la cottura dei cibi per l'evoluzione di tutta l'umanità. Sapete che in quest'anno si celebra l'anniversario di Charles Darwin, e tra i vari studi che si fanno sull'evoluzione della specie umana c'è anche chi si occupa del ruolo che la cottura dei cibi ha avuto nel miglioramento della specie, in qualche modo nel nostro cambiare abitudini. Leggendo qua e là dall'Economist si scopre che appunto il consumo iniziale della specie umana è stato probabilmente quello di carne cruda, e tuttavia il fatto di cucinare, di cuocere i cibi modifica quello che si mangia in con tre importanti conseguenze. Prima di tutto rende le molecole dei cibi più digeribili, per un effetto che appunto si ha sulla catena degli aminoacidi, e oltretutto il cibo diventa spesso più soffice e quindi più morbido, più facile da mangiare, e infine il corpo, utilizzando quindi cibi cotti, impiega meno calorie per la digestione, quindi c'è un risparmio di energia. Addirittura, basandosi su queste considerazioni, qualcuno dice che la maggior causa della moderna epidemia di obesità che affligge i paesi industrializzati, specialmente diciamo gli Stati Uniti, dove questa cosa è più evidente, non sarebbe solo dovuta a abitudini di vita troppo sedentarie, ma anche al fatto che si consumano più facilmente cibi più morbidi, più soffici. I cibi sono naturalmente cotti, il modo di prepararli è fatto per agevolare in qualche modo la digestione, quindi consumiamo meno calorie, e questo però poi da qualche parte si ripercuote ad esempio sul nostro stato di forma. In ultimo ci informa sempre l'Economist che non c'è molto accordo ancora tra gli archeologi sul punto in cui si è cominciato a cuocere o non cuocere i cibi. Anche in questo caso, come per molte vicende degli albori della storia umana, ci sono diverse ipotesi se la cottura dei cibi sia cominciata appunto da una stanzialità oppure abbia coinciso con l'allevamento. Ma a questo proposito vi ricordo che con il Sole 24 Ore da qualche giorno trovate in edicola la storia dell'economia. Ve ne parlo perché la storia dell'economia è una collana in 12 volumi in cui troverete una serie di saggi che appunto guidano dalla storia, dalla prima rivoluzione neolitica fino ad arrivare all'età contemporanea. Il primo saggio è proprio dedicato alla rivoluzione neolitica, alla stanzialità, al nomadismo, all'allevamento, e quindi in qualche modo direttamente legato a queste storie di cibo, di preparazione del cibo moderno e antico di cui abbiamo parlato finora. E allora, visto che parliamo di cibo, vi segnalo un articolo che compare sul Novello Osservatore, legato sì al cibo e alle modalità con cui consumiamo il cibo in questa epoca, ma anche e soprattutto alla crisi, perché c'è qualcuno per cui la crisi non si sente e anzi sembra avere in qualche modo un effetto positivo. Si tratta di McDonald's. Ovviamente le Nouvelle Observateur riferisce dell'andamento di McDonald's in Francia, ma nell'avvio dell'articolo di Sophie Fay c'è anche una rassegna dell'andamento della società a livello mondiale. Dice: i clienti continuano ad andare sempre più numerosi da McDonald's, ci sono scalcolati 58 milioni di clienti al giorno, più o meno l'intera popolazione della Francia. Il Jim Skinner, che è il capo dell'azienda a livello mondiale, non nasconde la sua soddisfazione, anche perché le sue azioni sono quelle tra le pochissime che sono cresciute nel 2008 a Wall Street. E anche in Francia, poi, spiega sempre l'articolo del Nouvel Observateur, c'è stato un aumento dell'11% e sono stati aperti 29 nuovi ristoranti. Tra l'altro, in Francia, come spiega poi nel Nouvel Observateur, c'è stato un tentativo, una sensibilità di McDonald's per adeguare la sua proposta ai prodotti locali, al gusto locale, l'introduzione di appunto frutta, insalate e miglioramenti nella decorazione dei negozi e così via. Il modello, si spiega, è oramai ben rodato e con questi risultati effettivamente non si può dire il contrario. Quest'anno, spiega Eric Gravier, che è il vicepresidente di McDonald's Francia, festeggiamo i nostri 30 anni in Francia, 30 anni e 30 anni in ascesa. Appunto, McDonald's e il fast food in generale sembra essere un settore, un'azienda che continua a crescere nonostante la crisi, o forse anche, chissà, in qualche modo favorita dai consumi alimentari dei tempi di crisi. Magazine 24. Bentornati, stavamo parlando di cibo, ma stavamo parlando anche di crisi. Allora, riprendiamo uno dei due spunti, il secondo, la crisi. Focus in edicola questo mese ha una copertina dedicata al più grande dei misteri, cioè Dio, ma venendo ad argomenti più terreni, uno dei richiami di copertina ci informa che la crisi economica potrebbe anche essere colpa della cocaina. Questo è la tesi dell'articolo di Isabella Cioni, che trovate sul numero di Focus di questo mese, e la spiegazione del legame tra crisi e cocaina è più o meno questa: stime sbagliate, scelte imprudenti, sottovalutazione dei rischi, fiducia esagerata nel proprio genio e spesso nella stupidità di tutti gli altri, incapacità di vedere e porsi dei limiti. Molti analisti sostengono che sono stati anche errori come questi, sostanzialmente difetti di valutazione, compiuti dai grandi attori della finanza internazionale, come da migliaia di manager di minore fama, ad aver spinto l'economia nella crisi odierna. A chi vive o lavora accanto a persone che fanno uso di cocaina, questo tipo di sbagli, questo tipo di sbagli di valutazione, appunto, appare familiare. Chiede Isabella Cioni, c'è un nesso? Risponde, io penso di sì, Silvio Garattini, che è direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche al Mario Negri di Milano. Chiaramente, precisa Garattini, la cocaina può essere soltanto una delle tante cause della crisi, ma certo la sua grande diffusione, insieme a quella di altre sostanze dopanti, anche ai livelli più alti del management internazionale, non ha giocato a favore di scelte equilibrate, perché la cocaina notoriamente altera le capacità di giudizio di chi la assume, sia quando sta vivendo la fase euforica, sia nella seguente inevitabile fase depressiva. Ecco, allora, oltre all'avidità che sicuramente è stata incolpata dal punto di vista umano tra i fattori che possono avere scatenato la crisi finanziaria prima e poi i suoi effetti sull'economia tutta, ci sarebbe anche da aggiungere, ci riferisce Focus, questo aspetto dell'utilizzo di droghe, l'utilizzo della cocaina, che può aver indotto a degli errori di valutazione. E riprendiamo invece l'altro tema che vi dicevo è ricorrente, infatti il tema del cibo è anche su Panorama da ieri in edicola, cibi che curano il mal d'amore, quindi di tutt'altri tipi di crisi si parla di crisi sentimentali, ci sarebbero dei cibi che hanno effetti positivi sui cuori infranti, erbe come salvia, rosmarino, nepitella e basilico, scrive Fiammetta Fadda su Panorama, possono essere cibi efficaci per migliorare l'umore. Gola e sentimenti, si legge, frutta, puntarelle con le acciughe, pesce all'acquapazza, mozzarelle sono gli ingredienti per uscire da una storia andata a rotoli senza ingrassare o entrare in depressione, perché il naufragio sentimentale deve essere coccolato. Vi segnalo poi una tabella che sconsiglia l'utilizzo, non sappiamo perché, ma del tiramisù, del cioccolato al latte, pane, zucchero, distillati, maionese, invece consiglia la mousse di lamponi, il cioccolato fondente, quindi non quello al latte ma quello fondente, la pasta, il miele, il vino, la senape, il tè verde, il mango, sono tutti cibi che avrebbero un effetto positivo sull'umore e quindi diventano particolarmente utili quando si esce da una storia d'amore finita male. E poi ancora, ultima cosa che vi segnalo sempre in materia di alimentari, di alimentazione, gli stand più originali del mondo, ancora da Panorama. Cristina Bassi ci informa delle fiere di tutti i tipi che ci sono in giro per l'Italia soprattutto, e dice niente male, scrive Cristina Bassi, la fantasia anche nel settore dell'alimentazione. A maggio Udine ci sarà A Tutta Birra, Napoli ha invece ospitato la fiera per il sale che si chiama Salt Expo, oltre a Pizza Fest e Pasta Mania. La novità però è la Mia di Rimini, che è dedicata ai pasti fuori casa, proprio quelli di cui parlavamo nella prima parte, pasti che sono in aumento, segnalavo altro consumo, non solo catering e bio catering, ma panini, tramezzini, snack, aperitivi e surgelati. Quindi ci sono fiere anche di questo tipo in giro per l'Italia, fiere dedicate in modo molto specialistico al settore dell'alimentazione. E concludiamo con Panorama per segnalare un evento che si svolge domani sera, domani notte in realtà, cioè la notte degli Oscar. Panorama dedica un ampio servizio alla notte degli Oscar, tutti i segreti degli Oscar affidato a Marco Giovannini, dietro le quinte, i trucchi degli studios che vengono usati per convincere i giurati, quelli dell'emittente televisiva ABC per fermare l'emorragia di telespettatori e per acchiappare donne e adolescenti. Il cinepremio per eccellenza è un grosso spot che decide la sorte di film e produttori, tanto che per vincere una statuetta le major investono in media 18 milioni di dollari. Si apprende da questo lungo articolo di Panorama che la macchina dello show degli Oscar vero e proprio è in crisi da qualche anno e quindi il canale ABC, come vi dicevo prima, sta facendo di tutto per recuperare gli spettatori anche sveltendo e spettacolarizzando molto la cerimonia. Vedremo poi domani notte e lunedì mattina, insomma, chi sarà riuscito ad assicurarsi le agognate statuette. Vi avevo promesso Wired, qualche cosa da Wired, il nuovo mensile che trovate in edicola in questi giorni, della Condé Nast. Vi segnalo una cosa che mi ha colpito, che è Echelon. Non so se ricordate Echelon, è la domanda appunto che si fa anche Wired nel suo servizio, affidato a Jacopo Guerriero. È qui che si nasconde Echelon, l'isola che ascoltava il mondo. Ricordate Echelon, il più prodigioso network informatico capace di filtrare ogni comunicazione elettronica? Fonti giornalistiche ne avevano parlato diffusamente già nel 1998. Si era detto di 120 satelliti spia in orbita, era stato pubblicato un elenco semiufficiale di 11 stazioni terrestri orientate in grado di spiare obiettivi militari, commerciali e civili. Appunto, hanno trovato un punto di un sito e lo presentano su Wired. Si tratta di Ascension Island, un'isola al centro dell'Atlantico tra Africa e Sud America, è uno dei siti del network, è al di fuori però della lista ufficiale e conosciuta. La base è gestita dal servizio segreto britannico, che è deputato allo spionaggio elettronico, e da una manciata di agenti della statunitense NSA, che è la più potente agenzia di intelligence nel mondo. Ecco, per scoprire che cosa è rimasto di Echelon, questo lungo articolo di Jacopo Guerriero su Wired, il primo numero di Wired italiano in edicola. E visto che questa indicazione di Echelon da Wired ci ha fatto tornare un po' indietro nel tempo, riprendiamo Il, che è il maschile del Sole 24 Ore, è in edicola già da settimana scorsa, lo trovate insieme al Sole 24 Ore. Ci sono alcuni salti all'indietro nel tempo tra le pagine di Il. Uno è ad esempio il compleanno, il 50° compleanno del nucleare italiano, perché nella storia nucleare il 1959 a Verte Il fu un anno molto importante per l'Italia. A pensarci ora sembra incredibile, ma in quell'anno nella zona del Garigliano cominciarono i lavori della prima centrale atomica, diretti dall'ingegnere Riccardo Morandi, famoso progettista specializzato in opere di cemento armato. Per gli ambientalisti è una sorta di Chernobyl italiana. A tutt'oggi questo luogo, che si trova tra Caserta e Latina, è tra i più visitati nello spazio internet. E siamo quindi arrivati alla chiusura del nostro appuntamento con i periodici. Io ringrazio Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma, Valeria Bernardi per la regia. Vi do appuntamento a sabato prossimo.